Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. La puntata di oggi per me è molto importante. Affronteremo un tema delicato e lo faremo con una persona a me particolarmente cara. Oggi non parleremo di malattia nell'ottica di prevenzione e cura, ma di vita, di una vita trasformata da una malattia inguaribile. La vita è quella di Mario Melazzini. La malattia che l'ha cambiata si chiama SLA, sclerosi laterale amiotrofica, e Mario Melazzini è qui in studio con me. Ciao Mario. Ciao Nico, grazie dell'invito. E abbiamo altri amici qua in studio, abbiamo il dottor Marco Breni, direttore dell'oncologia medica del San Giuseppe di Milano. Dottore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con lei parleremo di una relazione molto particolare, lo faremo naturalmente con Mario, che è paziente ma è medico e uomo, no? Come dice il titolo del tuo libro, ma parleremo di questa relazione che è così importante, a volte un po' difficile, che va alimentata, costruita, cresciuta, quasi come una storia d'amore, dottor Breni. Certo, è un rapporto, come tutti i rapporti tra uomini. Però in studio abbiamo anche Alberto Pellaia. Ad Alberto chiesto aiuto. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Perché ci guida in questa casa, non è un albergo, e non poteva mancare il suo apporto per parlare di famiglia, quando in una famiglia entra una malattia così importante, una malattia, possiamo dire, una malattia cronica, una malattia inguaribile come nel caso di Mario. Si alterano sicuramente gli equilibri, la famiglia deve accettare e metabolizzare questo nuovo componente della famiglia. Alberto. Sì, molte volte proprio i figli devono riorganizzare il loro modo di vedere un genitore, una mamma, un papà che entra in un percorso di malattia. Vorrebbero poterne parlare, vorrebbero poter disvelare le loro emozioni, ma spesso i genitori, per proteggerli, pensano che la cosa migliore è non dire niente, non far sapere nulla. 800 24 00 24, questo è il numero a cui vi invito di chiamare e partecipare alla nostra trasmissione per raccontarci la vostra esperienza, per confrontarvi con Mario. Per me conoscerlo, devo dirvi, è stato importante, molto importante. Da lui ho imparato anche un po' a trovare le parole per parlare di malattie difficili che ci fanno paura, che a volte preferiamo evitare anche solo di pronunciare. Soprattutto da lui ho imparato, e questo a me è servito come donna, che la malattia può e deve diventare occasione di cambiamento, e credo che sentire oggi l'esperienza di Mario ci aiuterà. Forse qualcosa dentro di noi si muoverà, spetterà poi a noi coltivarlo. Comunque potremo approfittare oggi di Mario per dare voce a chi vive con una malattia cronica al momento inguaribile. Ci sono storie di malattia, e lo scopriremo, che sono piene di vita, e di queste storie e dei loro protagonisti parleremo oggi. Intanto Mario, io partirei da una pagina del tuo libro, Un uomo, un medico, un malato, in cui racconti il cambiamento che ha prodotto in te la malattia, trasformandoti, è vero, in un malato, ma soprattutto in un uomo e in un medico diversi. Prima di essere malato non avevo contatto con me stesso, credevo di non avere bisogno di nulla, ma invece ero insoddisfatto, perché pur avendo tutto, ero sempre alla ricerca di qualcosa che non possedevo. Ora invece conosco i miei limiti. Non sento di dover dimostrare niente a nessuno, ma posso accettare la mia dipendenza dagli altri. Mi sono riconciliato con me stesso. Ne ho ben tre di fortune: come medico, come malato e come uomo. Come medico, perché ho realmente capito i bisogni fondamentali del paziente. Oggi so che un buon medico deve saper fondere l'obiettività e il rigore della scienza con l'empatia e l'umanità. Deve condividere con il malato e la sua famiglia il percorso della malattia, avere la consapevolezza, oltre alla capacità, di entrare veramente in contatto con chi soffre. Il paziente, che è in me invece, vive in prima persona le problematiche della malattia. Lo fa anche con occhio medico e ha la fortuna di condividere con gli altri malati questa sua esperienza. Questo è per me il valore aggiunto della malattia: essere d'aiuto a me stesso, ma anche a tante persone fragili. E poi c'è la parte più profonda, quella che mi riguarda come uomo. La malattia mi sta insegnando ad apprezzare gli autentici valori della vita, a gioire delle cose semplici, a non dare nulla per scontato, ad accettare i miei limiti. Ora, finalmente, mi sento sereno. Mario, tre fortune. Sì, in effetti. Lo dico sempre, tre fortune, perché inizialmente mi ero proprio scontrato contro quella mia presunzione un po' arrogante di medico, uomo di scienza, ricercatore, per cui la scontro con l'impotenza della scienza che io amavo più di tutto, quindi l'impotenza del guarire, l'impotenza della medicina. E proprio questo scontro mi ha portato ad essere una persona povera, una persona sola. Ho cominciato a pensare che la mia vita non fosse degna di essere vissuta, ma soprattutto quel concetto, quella cultura che molto spesso aleggia, che con la malattia o con la disabilità tutto diventa difficile, tutto non è conciliabile con una vita. Però pian pianino, perché l'accettazione della malattia è un percorso dinamico, cambia continuamente, in continua evoluzione, ho fatto scuola praticamente, sono andato a scuola di medicina, perché ho iniziato ad imparare e a comprendere quali fossero i reali bisogni dei nostri malati. Primo fra tutto, il bisogno del malato è sicuramente l'ascolto, essere preso in carico, essere curato. Noi spesso pensiamo che il bisogno fondamentale sia la guarigione, anche sicuramente, ma soprattutto l'ascolto, e soprattutto il malato non vuole sentirsi abbandonato. Come uomo ho potuto prendere delle decisioni che sicuramente forse senza la malattia non sarei riuscito a prenderle, e come malato ho imparato ad accettare i miei limiti, che è una delle cose più difficili. Quindi tre valori aggiunti proprio. Dottor Bregni, Mario dice: il malato ha bisogno certo di guarire, questo, ma ha bisogno soprattutto di essere ascoltato. Ieri sera ero insieme a Mario e tu, Mario, mi hai detto una frase di la dignità, dimmela, la dignità di, com'era? La dignità di un malato sta nell'occhio del curante. Questa è una frase, me l'ha detta ieri, e io ci ho ripensato tutto nel tragitto da Lodi per tornare a Milano. Un tempo si andava a piedi, sotto invece era una pioggia battente, e volevo proprio condividere, parlare di questa frase che a me in effetti mi ha colpito molto, perché tante volte noi lo proviamo anche nel nostro quotidiano. Quando andiamo dal nostro medico di base, siamo preoccupati, il suo sguardo è già terapeutico, ci fa vedere le cose in un altro modo. Dottor Bregni, lei come guarda i suoi pazienti? Anche loro guardano lei? Certo, l'incontro con il paziente è sempre un incontro con una persona prima che con un paziente. Ma a questo proposito racconto un aneddoto. L'altro giorno mi hanno chiamato in chirurgia per un paziente con un tumore del pancreas. Io sono andato al letto del paziente e questo signore simpaticamente mi accoglie dicendo: ah, ecco chi si prenderà cura del mio pancreas. E io gli dico: ma a me interessa lei, non il suo pancreas. E da lì abbiamo cominciato a parlare. Secondo me lo sguardo nel medico sta nel fatto che fa capire al paziente che è più importante lui della sua malattia, cioè che il valore della persona è più importante della malattia. E questa considerazione della persona è quella che prima di tutto aiuta il paziente a combattere con la malattia, prima ancora che, ovviamente ci vuole la professionalità e ci vuole la competenza, certo, questo è chiaro, però prima ancora di questo ci vuole un rapporto personale. Io invito i nostri amici da casa, Alberto, a chiamarci al nostro numero verde 824 0024, perché questa credo possa essere anche un'occasione per ripensare al rapporto che hanno con il proprio medico, soprattutto se convivono con una malattia non solo inguaribile, ma una malattia cronica che li costringe comunque a delle modifiche importanti nel loro quotidiano. Alberto, torniamo allo sguardo. Lo sguardo, guarda, proprio riprendo questa idea, perché quando noi nasciamo e siamo completamente in balia di chi si deve prendere cura di noi e ci può proteggere e far diventare poi le persone che diventiamo, quindi quando siamo proprio l'essenza di noi stessi che è incapace di provvedere a se stesso, ci sono due cose che ci danno il significato del nostro stare al mondo: lo sguardo della nostra mamma e il suo abbraccio, cioè il suo contatto corporeo, che sono proprio quelle dimensioni meta che non stanno nelle parole, non stanno in una diagnosi, non stanno in una certificazione, non stanno in un farmaco, ma servono oggettivamente al malato che deve affrontare un percorso per lui così imprevedibile, così proprio indecifrabile. E credo proprio che di fronte a una diagnosi per una malattia inguaribile, in qualche modo ritorniamo coi bisogni essenziali di quel bambino che siamo stati e che ha davvero bisogno, per capire il senso di sé, dell'operazione di rispecchiamento dello sguardo dell'altro. Mario, anzi il Mela, volevi sì, intervenire? Proprio per questo, nello sguardo sempre, noi medici dovremmo avere il coraggio non di guardare l'organo malato, quindi, ma di guardare la persona, come diceva il dottor Brain, ma soprattutto cercare di non avere quello sguardo della scienza, che dico sempre, no? Che noi vediamo la patologia. Dovremmo avere il coraggio di vedere con lo sguardo del genitore, proprio con quello sguardo di tenerezza che veramente dà dignità, ma restituisce anche dignità a noi che siamo lì pronti per curare il nostro malato. Io prima di... Dottor Bregni? Sì, a questo proposito, anche la scienza, quindi la conoscenza scientifica, se non è filtrata da una conoscenza personale, può fare dei grossi errori. Ad esempio, a lei è capitato qualcosa di simile? Può capitare, a me è capitato a volte di non aver preso in considerazione il paziente in tutta la sua globalità e di essermi concentrato solo su un determinato aspetto, su un determinato organo, e quindi magari andare a fondo di quella particolare disfunzione, però avendo perso di vista tutta la situazione del paziente. Questo fa fare degli errori. Mario, prima di parlare della malattia che ti ha cambiato, che però grazie al tuo impegno devo dire che la SLA è la malattia rara più conosciuta. Sì. Tutti, bene o male, senza avere delle competenze mediche, possiamo capire a che cosa ci riferiamo quando pronunciamo questa parola. C'è stato un punto in cui della tua vita in cui tu da medico ti sei trovato a diventare paziente e hai capito proprio sulla tua pelle che cosa può significare questo. Noi stiamo concentrandoci sulla relazione tra medico e paziente, tante volte inizia proprio da quando il medico ti fa un esame e poi quando ti deve fare una diagnosi. Di questo parleremo, ma intanto sentiamo. Sono le 8 di mattina di un giorno d'aprile del 2002 quando il dottor Mario Melazzini, in veste di paziente, varca il portone del Besta di Milano. A mezzogiorno, finalmente, gli fanno gli esami. All'1 è il momento della biopsia, il prelievo del tessuto. Ci pensa una dottoressa piuttosto giovane, decisa. Sembra molto sicura del fatto suo. «Lei fa sport?» gli chiede. «Ciclismo tutto l'anno e roccia d'estate quando vado in montagna», risponde. Le parole della donna sono pugnalate, dritte al cuore. «Beh, d'ora in poi se lo scordi, non potrà più fare sport». Il medico paziente Mario Melazzini subisce in silenzio. Dentro sente come un pugno, un fortissimo pugno allo stomaco. Le gambe sono ancora più deboli. Per un momento ha la sensazione che il sangue si geli nelle vene e non ha la forza di reagire. L'ago della biopsia che entra nella pelle fa malissimo. Il tutto dura una decina di minuti, che senza anestesia sembrano un'eternità. «Le faremo sapere», taglia corto la dottoressa. «Quanto ci vorrà?» domanda lui. «Si faccia sentire tra un mese e mezzo». Allora Mario sbotta. «Senta, dottoressa, sono medico anch'io. So quanto ci vuole ad avere gli esiti di questi esami. Facciamo così. Io la richiamo fra qualche giorno, diciamo una settimana. E lei mi fa avere i risultati». Esce dalla sala appoggiandosi alla moglie. È stanco e arrabbiato. La collega del Besta rimane ferma, come gelata. Si rende conto di avere esagerato e non dice una parola. Gli inizi non promettevano bene. No, assolutamente. E qui ti scontri proprio con, senza nulla togliere, noi medici sicuramente siamo molto impegnati, un carico di lavoro eccessivo, ma ci dimentichiamo spesso che il malato è lì che aspetta loro. Io ho voluto, proprio quando iniziai ad avere i primi disturbi, a fare come il mio malato, il mio paziente, seguire la trafila di tutti. Ed è una trafila infinita che inizia dalle prime ore del mattino fino ad arrivare ad avere 10 minuti insieme al medico che dovrebbe in qualche modo affrontare il tuo problema. E questo è una cosa che non va bene, non va bene. Noi dobbiamo dedicare tempo. In questo momento in cui il rapporto medico-paziente è basato sempre di più sulla parsimonia, proprio sulla quantizzazione della prestazione, sul minutaggio assistenziale, dobbiamo rivalutare il rapporto medico-malato, perché è alla base della nostra professione. Abbiamo Raffaella che ci chiama da Roma all'824-0024. Raffaella, benvenuta, buongiorno. Nicoletta, mai come quest'oggi la trasmissione è preziosa, mai come oggi ti ringrazio, scusa che ti do del tu, ma mi fa piacere. Particolare. Volevo dire davvero un abbraccio a Mario, perché io non solo sento le sue interviste, ma ho letto i suoi libri e ho un percorso non di SLA, ma una malattia autoimmune grave che mi tormenta da tutta una vita, da 70 anni. E volevo dire a conforto, che mi è di conforto nei miei momenti difficili, ma a conforto un po' di tutti, che attraverso delle lunghe nottate durate anni e lunghe giornate di estrema difficoltà, ho trovato non più quella angoscia e quella pazzia che avevo prima, quando avevo un ufficio, un percorso di carriera e quant'altro sulla vita, ma ho trovato dei valori interni. Ora che sono sola, assolutamente sola al mondo, molto malata, non sono sola. Certo, ho molte difficoltà sul piano fisico perché sono sola e quindi tutto diventa enorme, anche la cosa più piccola. Ma volevo testimoniare che ci può essere una gioia dalla comprensione sacra della vita, e per questo volevo abbracciare Mario. Vi ringrazio di avermi dato questa grande opportunità. Grazie. Mario, sei nel mio cuore e sappi che i tuoi libri li ho spediti a parecchie mie amiche che debbano trarre veramente un succo vitale per l'anima dalle tue parole e dalla tua testimonianza. Grazie di tutto. Grazie a lei, Raffaella, grazie per questo intervento che è un po' una carezza al cuore. E io, quando vedo il mio amico Mario, gli dico che è contagioso e terapeutico, perché lui proprio con la sua esperienza contagia dalla voglia di vivere, cioè ti fai ammalare della voglia di vivere, perché questa malattia inguaribile ti ha dato un'inguaribile voglia di vita. Sì, lo dico sempre, inguaribile. Ci ho messo un po' di tempo, perché non è che sia tutta rose e fiori, il percorso con la malattia non lo è assolutamente, però la fortuna è che ora di inguaribile ho solo questa voglia di vivere, apprezzare anche nella difficoltà quotidiana la bellezza delle piccole cose, e mi sento un uomo molto fortunato. Andiamo a Brescia, ci chiama Lucia 824-0024, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, intanto vabbè, anch'io ringrazio per questa trasmissione, non... credo sia abbastanza difficile parlare di queste cose, ma bisogna assolutamente farlo, sia per i sani che per i malati. I malati perché ci sono dentro, i sani perché non sappiamo quanto sani e quanto duri, non che ce lo auguri, ma insomma ci siamo capiti. E poi dai malati si impara. Assolutamente sì. Io ho avuto una storia molto pesante, perché io 6 anni fa mi sono ammalata di un tumore al seno. Purtroppo non è stato un percorso facile, perché ho scoperto nello stesso momento di avere parecchie metastasi al polmone. quindi la mia storia era molto seria. Diciamo che adesso sto bene, ovviamente sono sempre sotto controllo. Il punto è questo, salvo alcune rare eccezioni, sì? I medici non mi hanno aiutata, anzi molto spesso sono stati addirittura un ostacolo al mio percorso. In che senso? Sì, grazie. Nel senso dell'atteggiamento, un po' come quello che sentivo anche ora. Da Mario, certo. Esatto, notando che Mario può sbottare e dire guardi, io sono medico. Io non potevo farlo come la maggior parte delle persone, per cui non potevo nemmeno attrarre l'attenzione, almeno nel momento di rabbia, su di me. Certo. Perché non avevo nemmeno quest'arma. Volevo solo raccontare un piccolo episodio che secondo me però è significativo. Ad un certo punto io sono andata dall'ennesimo medico per fare una visita. Questo signore mi ha tenuto l'attenzione su di me per circa 5 minuti, 6 minuti. La mia storia purtroppo era un po' lunga. Per cui ad un certo punto lui ha distolto lo sguardo, ha cominciato a scrivere sul suo blocco e a un certo punto io spiegavo, dicevo guardi, per esempio ho notato che qui ho più dolore, ma questo qui che io segnavo con la mano, lui mica lo vedeva, stava scrivendo, gli stavo spiegando dove avevo più dolore, lui mi diceva sì, e scriveva. E io mi sono detta, ma se io stessi segnando il muro, se ne accorgerebbe? Non se ne accorgerebbe. Lucia, è il tempo e l'attenzione, il prendersi cura, non mi sembra che ai medici chiediamo troppo, sicuramente, però i medici vanno formati. Siamo tornati insieme in una puntata, stiamo ricevendo molti messaggi che parlando di malattia diventa come un'iniezione di vita. Lucia, avevamo lasciata prima dei mercati, ci chiama da Brescia. Lucia, è ancora con noi? Sì, sono ancora qua. Lucia, allora, una storia difficile, faticosa, sì, uno scontro con pesante. Un medico che dicevi, faceva, sì, scriveva e io gli segnavo dove avevo dolore, cercava, esatto. E lui. È frequente trovarsi in queste situazioni? Ma purtroppo devo dire, mi dispiace molto dirlo, ma purtroppo la maggior parte dei medici che ho incontrato sono stati così, cioè dall'indifferente allo scortese, al nervoso, all'irritato, cioè c'erano tutti. E però appunto per questo anche che volevo dirvi ancora una cosa. Grazie. Ad un certo punto ho incrociato un medico diverso, molto diverso, e ricordo che mentre mi stava parlando e c'era questa attenzione a quello che io avevo detto eccetera eccetera, ad un certo punto proprio mi si è creata nella mente una frase e ho pensato, ma allora vale la pena di lottare. Quindi porca miseria, possibile che non ci sia modo di dare valore a questa cosa? Il paziente deve attingere a tutte le proprie forze, tutte. Quindi avere l'attenzione e l'ascolto del medico è fondamentale, non è un accessorio. Assolutamente. Io mi arrabbio molto quando i medici si nascondono dietro al ma noi dobbiamo porre una cosa tra noi e il medico, tra il certo. paziente. Queste sono palle, certo. Allora, dottor Bregni, mi è scappata un po' una parolaccia, ma è vero, mi è venuta dal cuore, ma anche perché io mi sento a casa con Mario. E, dottore, intanto Lucia ti ringrazio molto per il tuo intervento e sono contenta che tu abbia incontrato un medico che ha rappresentato per te una svolta. Lucia, secondo me, ha detto due cose molto interessanti. Ha detto, Mario aveva un po' la competenza, cioè dire, attenzione, scusi, dottore, caro dottore, sono medico anch'io, le cose le so, quindi la competenza che spesso al medico, al paziente normale manca, perché si ammalano anche i medici, ma si ammala anche chi medico non è. La seconda cosa che mi sembra importante, poi è una storia a lieto fine, ha finalmente incontrato una persona, non stiamo qua picchiando sui medici, cerchiamo di capire quanto possa essere terapeutica la loro relazione, è il tempo. Ma se io non incontro il medico, cioè Lucia poi l'ha incontrato dopo tanto tempo e questo le ha dato la forza, che cosa posso fare? Ma Io innanzitutto ringrazio la signora Lucia perché mi pare che abbia detto di un'esperienza che purtroppo è comune a molti. Ma io credo che però il medico è un uomo come tutti gli uomini, quindi ovviamente ha i suoi momenti difficili. E posso assicurare anch'io che dopo aver visto 12 pazienti in ambulatorio è molto difficile concentrarsi sul 13° paziente. Ma io credo che sia lo stesso paziente che deve provocare il medico a una relazione. Non deve aver paura di chiedere al medico di entrare in relazione con lui. E se il medico si sottrae a questa relazione, allora giustamente il paziente deve cercare un'altra persona. Facciamo un giro di tavolo, Mario. Sicuramente noi pazienti, noi malati, abbiamo un nuovo ruolo. Un nuovo ruolo perché dobbiamo sapere che cosa chiedere al nostro malato e possiamo al nostro medico. Dobbiamo sapere come chiederlo e anche a volte come ottenerlo, perché noi dobbiamo essere protagonisti nel nostro percorso di malattia e come medico mi sento che di stimolare il mio malato, perché io ho bisogno della sua alleanza, della sua condivisione. E noi medici non dobbiamo dimenticarci anche la parola speranza, che per un malato affetto da una patologia inguaribile, da una patologia cronica, progressiva, è fondamentale, che non è un'illusione, ma è sicuramente un sentimento concreto, è un elemento concreto. Perché c'era una malata americana, una vecchia malata americana come malattia anamnesticamente, malattia neoplastica metastatica, dice: l'importante è che io e il mio medico guardiamo insieme nella stessa direzione. Ecco, questa è la strategia vincente, questa è la strategia dell'alleanza terapeutica. Alberto, direi che la parola chiave è proprio alleanza terapeutica, e in qualche modo il paziente fa un'operazione che è quello dell'affidarsi, cioè deve avere totale fiducia nei confronti del medico che lo cura. La fiducia è basata da una parte sulla competenza tecnica, il medico oggettivamente dovrebbe essere quello che ne sa di più, ma non puoi avere fiducia di uno che è molto competente e potente con te ma non riesce a mettersi in relazione. Per cui l'altro aspetto fondamentale è che per poterti davvero affidare a una persona, per poterti in qualche modo far gestire da lui, perché poi è questo che il medico fa nella tua malattia, devi sentire che quella persona ti è vicina e sintonizzata con te. Andiamo a Maria Luisa che ci chiama da Milano. Buongiorno Maria Luisa, benvenuta. Buongiorno, mi sentite? Sì, direi di sì. Bene, vedo allora che Peter Bescapè in regia, che intanto ringrazio come Laura Vanossi in redazione, ma scrollo un po' la testa, ma va bene. Maria allora, Luisa, proviamo. Grazie a voi naturalmente per quello che fate e per l'aiuto che potete dare. Io voglio abbracciare e salutare Mario e dirgli che anche io mi trovo in una situazione piuttosto difficile da molti anni. A 28 anni ho avuto una neoplasia grave, mi hanno operata, adesso ho problemi degenerativi serissimi, mi hanno proposto l'anno scorso 2 operazioni di neurochirurgia e non voglio. E ho trovato una strada diversa, però che lavora moltissimo appunto sulla parte non fisica, che è quella positiva, è quella di cercare di andare al di là dei limiti del proprio corpo, nel senso che in fondo il corpo fa parte dell'essere, e questo bisognerebbe che i medici nostri, che ci trattano male, che ignorano quello che possono essere i problemi non fisici ma psicologici in effetti del malato, è quello che è stato detto continuamente, cerchiamo di lavorare insieme, ma non siamo delle scatole, siamo degli esseri umani. Lavorando su questo, cercando di vincere, è quello che stanno facendo queste splendide persone che hanno parlato durante la vostra trasmissione, cercando di vincere se stessi, la malattia e in effetti la morte, cioè accettando magari tutto quello che ci porterà a morire, ma sapendo anche che non moriremo. Questo è un po'. Grazie. Non siamo solo questo, evidentemente. C'è dell'altro. Grazie Maria Luisa per essere intervenuta. Dottor Bregni, le passo la parola per un commento. E sì, secondo me la parola chiave è quella che ha detto Maria, ed è la speranza. La speranza che non è un'illusione, perché si fonda sulla certezza di un rapporto tra due persone, tra il medico e il paziente. Quindi in effetti quello che il paziente vuole sentirsi dire è io non so come andrà, perché anche il medico non è in grado di dire con certezza che cosa succederà in futuro, però puoi star tranquillo che io sarò con te e che ti accompagno. Questa è la base della speranza. Io dalle telefonate di Maria Luisa ci ha detto: devo fare, mi sono stati proposti due interventi ma io non voglio farli. Se il momento della comunicazione della diagnosi credo che sia un momento in cui ti dà un po' la cartina tornasole del medico che hai di fronte e lì si gioca in una buona parte del rapporto, io credo che sia molto importante e difficile, ma lo chiedo a te Mario come medico e come paziente, accettare una nuova terapia. Ti devi fidare, ma c'è volte, ecco, allora è un a volte il medico la propone, il paziente non vuole farla e c'è una speranza, forse non c'è, i rischi, insomma io immagino che sia difficile, ti devi fidare totalmente di quell'uomo che si prende cura di te. Io penso che il rapporto fra noi medici e i nostri malati è un rapporto, io dico, in continua evoluzione, è un rapporto dinamico, non ci sono degli standard proprio di comunicazione. Sarebbe bello, eh? Sarebbe, no, secondo me no, si perde proprio il lato umano della comunicazione. Però c'è una grossa, se noi andiamo a definire il rapporto medico-malato, che è la domanda che viene fatta da una persona che ha un bisogno e ha la necessità che questo bisogno venga esaudito, venga soddisfatto, e un'altra persona che ha le competenze e che può mettersi a disposizione, diventa fondamentale che il malato si affidi. Si affidi non significa accetto ciecamente ciò che tu mi proponi, però lo condivido insieme a te. E io medico, che penso di fare, cioè devo fare il massimo per te nel modo migliore e agire in scienza e coscienza correttamente, cerco di portarti sulla strada giusta. Però c'è la fondamentale, il punto fondamentale è affidarsi, questo è fondamentale. Ciò che diceva prima la signora che ha telefonato, e che ringrazio, distinguiamo sempre la sofferenza fisica e la sofferenza psicologica, perché lavori pubblicati su riviste nostre di oncologia di qualche tempo fa, alla domanda che veniva posta a un gruppo di malati e a un gruppo di oncologi se era più importante trattare il dolore o la fatigue, quella sindrome d'accompagnamento alla malattia neoplastica di astenia, di stanchezza profusa, gli oncologi quasi per il 95% dicevano il dolore e più della metà dei pazienti dicevano la fatigue. Questo testimonia. Questo testimonia molto. Eccoci, siamo tornati insieme, abbiamo Enzo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Enzo. Buongiorno a tutti, volevo una conferma: è vero che statisticamente questa malattia colpisce più i calciatori? Se è vero, perché? Poi un'altra osservazione per quanto riguarda che tante volte siamo dei numeri per i medici. Ho avuto l'occasione di essere visitato dallo stesso medico sia in privato che in mutua, praticamente mi sembrava di avere a che fare con due persone radicalmente diverse. Ho perso la stima per questo medico e non ci sono mai più andato. Enzo, ha fatto bene, no? Dottor Bregni, sì, cosa dici? Mario, tu che sei Alberto? Scarsa professionalità. Ok, Mario, Enzo promosso, ma SLA e calciatori, una relazione provata? Allora, è una relazione dal punto di vista epidemiologico, cioè numerica, provata, nel senso che da uno studio retrospettivo condotto sotto lo stimolo di un'inchiesta della magistratura torinese è stato evidenziato che nella popolazione di calciatori professionisti, perché è stato valutato solo su calciatori professionisti, una frequenza di circa 6 volte superiore ad ammalarsi di SL, di sclerosi laterale amiotrofica. Questo però, io ci tengo a precisare, non significa SLA malattia dei calciatori e non significa che il calcio faccia venire di SLA. È una cosa importante, le cause sono, noi sappiamo, allora sanno i nostri ricercatori che l'ASL è una malattia multifattoriale. Ancora di più nel calcio, quali possono essere dei fattori comuni? Sicuramente i microtraumi, cioè questi continui traumi nei colpi di testa, nei tackle, ma poi soprattutto era stata invocata l'eccessivo utilizzo di farmaci leciti, cioè degli antinfiammatori che i calciatori, gli sportivi fanno per affrontare al massimo livello di prestazione fisica. Ancor di più sono stati chiamati in causa gli erbicidi e i pesticidi che servono per bonificare i terreni di calcio, e su questo ci sono già delle evidenze scientifiche. Infatti c'è una categoria di lavoratori professionalmente più esposti a questi pesticidi che hanno anche loro una maggior frequenza di ammalarsi di SLA, che sono gli agricoltori, e questo è estremamente importante perché i pesticidi sono neurotossici. E infine, e non per ultimo, che è fondamentale, una predisposizione individuale dal punto di vista genetico che permette la slatentizzazione di questa malattia. Però non è sinonimo di SLA uguale calcio. La SLA è la malattia, purtroppo, che colpisce tutti indistintamente. Ci ha raggiunto Ron. Ron, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Senti Ron, prima di parlare con te, voglio presentarti Luciano, che ci chiama da Milano, che entra nella nostra trasmissione all'824-0024. Luciano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi chiamato. Ci racconti, Luciano. Allora, una breve esperienza positiva in questo caso. Sì. E io un mese e mezzo fa circa ho accompagnato un mio amico che è nel reparto di oncologia dell'ospedale Padre Bene Fratelli di Milano, dove lui è in cura da 3 anni, credo, per una serie di tumori che ha. E abbiamo avuto una bella esperienza perché la dottoressa, o perlomeno io lo ritengo così, la dottoressa che lo ha visitato, prima lo ha visitato, abbiamo visto l'attack che aveva ritirato al computer, ci ha fatto vedere tutte le cellule, come si stavano comportando, la reazione delle medicinali che lui stava gli stavano somministrando in quel periodo. E a un certo punto ha detto: io vorrei, diceva la dottoressa, cambiare un po' questa terapia, però prima di decidere voglio chiamare la mia collega, quindi ha chiamato il primario, sì. Ha chiamato, ci sono consultati mentre noi eravamo là, e allora il primario ha detto: ma io li darei insieme a questa, sì, insomma, medicina, hanno deciso, stava prendendo un'altra, e la dottoressa gli fa: no, tu guardi che quella medicina là, però io ho paura che poi lo porti in anemia il mio paziente, poiché il paziente è un testimone di Geova, dice: non voglio rischiare poi, certo, di avere delle altre complicazioni. Luciano, quindi un medico competente e accogliente, dottor Bregni, come quello che ci auguriamo. Ce ne sono e per fortuna, sì, però si deve ancora molto lavorare. Ad alcuni bisogna dire: sono qui. Prima di dare la parola a Ron, vuole... Sì, no, infatti è vero, esistono medici competenti e accoglienti nei confronti dei pazienti, e a commento volevo dire che non tutti i pazienti, non esiste un codice di comportamento univoco, perché per esempio questo collega che ha mostrato l'attack e ha spiegato l'attack al paziente ha affrontato il paziente in quello che lui aveva bisogno di sentirsi dire in quel momento. Ci sono pazienti a cui che non invece, è possibile, sì, mostrare, che invece devi proprio, è la relazione cucita su misura. Ron, sì. in una pièce teatrale in giro per l'Italia col tuo amico proprio Mario, sì. Siete sì, una coppia, sì. Siete il mio eroe. Ma sai che diventa un po' l'eroe di tutti, Mario? Perché lo so. Che cosa no, vuoi? Devo dire che comincio a scocciarmi un po', perché appena entro in scena, diciamo, ha un successo pazzesco, si vede la sala, si alza in piedi, queste cose qua, per cui è un successo enorme, mi oscura ormai. Sì, guarda, immagino, però insomma, anche sono, perché... Sono felice. Senti, vogliamo parlare di questo spettacolo che toccherà molte città italiane, Alberto ha anche il calendario per cui vi aggiorneremo, ma sì, in pratica sì. Tu e il Mela cosa fate? Ma in pratica, guarda, io sono solo sul palco, e cosa faccio? Sono in una mia casa ideale dove appaiono dei personaggi che io vado spesso ad interpretare, sono già stati interpretati, appaiono, vengono proiettati in alcune zone di questo palco. Sì. Mia madre che esce dal frigo, per esempio, e cominciamo a parlare piuttosto che a discutere o a ridere, piuttosto che Lucio Dalla, piuttosto che un gesuita, un rumeno, mio amico, e il mio amico Mario Melassini, che vado a fare proprio... proprio come personaggio nel primo tempo. In un secondo tempo appare proprio, giro la poltrona e appare Mario. Cosa succede? Mentre con gli altri ho parlato di vari problemi di me, ecco, è un percorso nella mia interiorità, nel mio passato, nel mio presente, nel mio futuro. Mario arriva e improvvisamente mette tutto quanto a servizio degli altri, cioè fa in qualche modo un punto su una situazione che è testamento biologico. Insomma, ecco, Mario dà una svolta e tutti in piedi ad ascoltare il Mario, ma Ron non è sicuramente oscurato. Ron, ti ringrazio per essere stato con noi. Che Mario si abbia una standing ovation ogni volta, se lo vedo. Grazie a Ron. Arrivederci, ciao, grazie Mario. A Mario Melazzini, al dottor Bregni, ad Alberto Pellai, a voi che ci avete aiutato a trovare le parole per parlare di un tema difficile, ma che sono certa ci aiuta a vivere con un altro occhio. Io vi aspetto domani, Mario. Alla prossima. Alla prossima. Grazie ai miei ospiti, a domani. Un saluto da Nicoletta Carbone.